l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, eccoci qua in diretta con l'altra Europa. Come ogni sabato, come ogni settimana, l'Europa che diventa protagonista, l'Europa delle storie, delle persone, delle opportunità. Quella che è l'attualità economica e politica europea viene raccontata giorno per giorno da Radio 24. Noi nella nostra puntata settimanale cerchiamo anche altre sfumature, altri punti di vista, le coordinate per trovarci sulle nostre piazze virtuali Euronet Plus R24 oppure Federico Taddia, il mio account personale su Twitter e su Facebook, le piazze digitali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Ogni settimana un viaggio, oggi partiamo proprio da qua, partiamo dal mondo digitale. I had a dream about you. In this dream, I'm dancing right beside you. And it looked like everyone was having fun. The kind of feeling I waited so long. Don't stop, come a little closer. As we jam, the rhythm gets stronger. There's nothing wrong with just a little fun. We were dancing all night long. Digital Champion è una figura di consulente richiesta dall'Unione Europea per promuovere i temi dell'innovazione tecnologica e dell'agenda digitale, un consulente per ogni Stato membro, un consulente che possa lavorare a fianco del commissario europeo e a fianco del team economico del governo di ogni singolo Stato. In questo caso stiamo parlando ovviamente dell'Italia e diamo il benvenuto al Digital Champion italiano, Riccardo Luna. Ciao Riccardo! Buongiorno, grazie dell'invito. Non mi piace consulente, però io preferisco attivista, cioè, stimolatore, è vero? È vero che tecnicamente sono un consigliere economico, però francamente, come dice Nelly Kroes, che è il commissario scelto dell'Unione Europea, a internet e al digitale servono attivisti e combattenti, non burocrati. Tra l'altro, nelle prime dichiarazioni che ho letto nelle ore successive alla tua nomina, hai usato parole molto poco digitali, umiltà, emozione, calore, nel senso che è una responsabilità forte quella che ti sei caricato sulle spalle. Ed è una responsabilità fatta non solo di agenda digitale, non solo di tecnologia, ma proprio di voglia di cambiamento che un po' anche caratterizza tutti questi anni che ti hanno visto come attivista. Cosa vuoi fare? La tecnologia o serve a questo o non serve a nulla. O la tecnologia serve a migliorare la vita delle persone oppure ne faremo volentieri a meno. Ecco, io sono convinto che internet sia, lo dissi tanti anni fa, la più grande arma di costruzione di massa. In questo momento anche più formidabile strumento per creare posti di lavoro e creare occupazione, o prendiamo questa cosa da questo senso e miglioriamo la vita delle persone, facciamo ripartire il ciclo economico in Italia, oppure faccio meno di fare il cemio, non serve a nulla, non servono i titoli. Oggi abbiamo una grande opportunità. Se noi non siamo in crisi perché abbiamo fatto tutto il possibile per ripartire, siamo in crisi perché non abbiamo fatto nulla o quasi nulla. Ieri pomeriggio ero in Emilia Romagna per altri motivi, il Presidente del Consiglio mi ha avvisato che stavo andando a visitare Yux, che era una formidabile startup del 2000 che ha inventato l'e-commerce della moda appunto nel 2000, nel momento in cui esplodevano tutte le aziende, le new economy, c'era una grande crisi. Ecco, oggi Yux è un colosso mondiale che sta alle porte di Bologna, che è diventato l'Amazon della moda e che grazie all'e-commerce in questo momento fa mezzo milione di euro di fatturato. Cioè, allora 500.000 euro di fatturato, voglio dire, è un colosso assoluto. O noi ripartiamo da aziende di questo tipo, o ripartiamo dall'e-commerce, o ripartiamo da una tecnologia al servizio anche delle imprese, oppure non ce la possiamo fare. Per far questo cosa serve? Dobbiamo lavorare sulle competenze digitali. Noi siamo il paese d'Europa dove le persone purtroppo, ecco, hanno il più basso livello di familiarità con i computer, familiarità con i social media, familiarità con il coding, con la scrittura di internet. Allora di queste cose si deve occupare il champion, no? Come dicono in Europa, dobbiamo fare in modo che tutti gli italiani diventino davvero digitali e quindi usino il digitale per migliorarsi, per migliorare anche la propria vita. Certo, e affinché non è mai troppo tardi, o meglio, non è ancora troppo tardi. Hai citato il maestro Manzi, figura di cui sono particolarmente affezionato, che sembra la cosa più lontana dal mondo digitale. Lui che con un gesso, una lavagna, insegnava l'italiano appunto a tutti. Ti sei ispirato a questa figura e dicendo serve un campione digitale in ogni comune italiano. Ma intanto io considero il maestro Manzi una delle grandi figure italiane di questo secolo. Credo che un pezzo del boom economico si debba anche al fatto che tutti i pomeriggi, tutte le sere, lui andasse in televisione a insegnare gli italiani a leggere e scrivere, e che 5 milioni di italiani abbiano preso la licenza elementare grazie alle sue lezioni in televisione. Oggi imparare a leggere e scrivere vuol dire imparare anche a usare internet, imparare a conoscere internet, imparare anche a conoscere i pericoli di internet, perché ci sono anche quelli, ma non è che certo. Uno li evita chiudendosi dentro casa, li evita conoscendolo e capendo meglio la rete e i suoi limiti. Oggi quindi c'è bisogno di una grande azione di questo tipo. Per questo io credo che è un compito troppo grande per un solo Digital Champion. Io credo che nelle prossime 3 settimane al massimo annunceremo il fatto di nominare, e avremo effettivamente nominato i primi degli 8100 Digital Champion italiani. Ne nomineremo uno per ogni comune. Avranno due funzioni queste persone: una, quella di difensore dei diritti del cittadino digitale. Non c'è la banda larga, non c'è il wifi, la tua scuola non si vuole digitalizzare, la tua pubblica amministrazione ti chiede ancora il fax, ti aiutiamo noi. Inizialmente ti aiutiamo e spieghiamo noi all'amministrazione come si può fare, una specie di help desk. Okay. Se ci sono ancora dei problemi mi chiamano direttamente, intervengo io, voglio usare tutto il potere, che in questi casi è soltanto di moral suasion, per spiegare davvero le opportunità. Ti racconto un aneddoto di questi giorni, quando collaborai 2 anni fa con il ministro dell'istruzione, varammo un progetto per portare la banda ultralarga in tutte le scuole del sud, perché usavamo i fondi europei. Adesso mi arriva la notizia che 70 presidi rifiutano la banda ultralarga perché non la vogliono. Allora, francamente, non vogliono collegare le scuole alla rete. Io ho detto: datemi i telefoni di questi presidi, i nomi, li chiamo, li vado a trovare uno per uno e gli racconto perché questa cosa è la cosa che porta la scuola nel futuro, è la cosa che vogliono quei ragazzi, ma la scuola che vogliono anche i docenti, stare in una scuola più viva. Allora, con 8100 persone che si occupano di questo, sparse sul territorio, che promuovono progetti di alfabetizzazione digitale, che vanno a insegnare internet ai bambini, ma anche agli anziani, ma anche ai cinquantenni. Noi non ci rendiamo conto che se oggi un cinquantenne perde lavoro e non sa che cos'è internet, non lo troverà mai più. Non ha speranza di essere riassunto un cinquantenne che oggi ha perso lavoro se non è collegato con il resto del mondo, se non ha questa cultura dentro. Allora noi dobbiamo fare un programma massiccio di alfabetizzazione digitale e portare gli italiani dall'altra parte del fiume, nella terra promessa, tenendo conto che a quel punto davvero l'economia italiana avrà tutte le condizioni per ripartire, perché ripartirà da una cosa fondamentale: il capitale umano delle persone. Siamo una nazione di talento, di inventori, di persone che hanno dimostrato di essere a volte geni eccezionali. Dobbiamo tutti come paese fare questo salto, andare dall'altra parte, e sono convinto che a quel punto il paese ripartirà. E anche con questo spirito, fino a venerdì prossimo sarà la settimana europea della programmazione, la Europe Code Week, per avvicinare soprattutto i più giovani a un pensiero, a un modo di pensare nuovo, innovativo. Ci sono tantissimi eventi, codeweek.it per scaricare l'intero programma, e ci risiamo, Riccardo, a prendere dimestichezza con la quotidianità che il digitale ci offre. Intanto uno può pensare che Code Week siano le solite vecchie lezioni di informatica. Ecco, provate a portarci i vostri figli, non se ne vorranno più uscire. È il modo in cui loro imparano i primi linguaggi, appunto, del coding, dell'informatica, ma li imparano giocando, costruendo dei robot, facendoli muovere attraverso il loro computer. Imparano a costruirsi l'applicazione, imparano a costruirsi il videogioco, e attraverso quello poi, come dire, imparano anche alcuni dei principi fondamentali della logica. Oggi imparare il coding non serve soltanto a quelli che vorranno fare gli sviluppatori, serve a tutti. Secondo l'Unione Europea ci sta 1 milione di posti di lavoro che aspetta soltanto di essere preso dai primi che saranno in grado di capire questo linguaggio. Certo che riguarda i bambini che si appassionano e si divertono, ma io insisto, riguarda anche i grandi, noi adulti, che possiamo aumentare le nostre competenze e aumentare quindi le nostre opportunità di lavorare. Digitalchampions.it è il sito ufficiale per l'intero progetto, codeweek.it. Riccardo, grazie davvero, buon lavoro, sicuramente ci ritroveremo qui all'Altra Europa per parlare ancora di tutti i tuoi progetti in atto. Ciao, buon sabato. Grazie a voi. Ciao. Adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'Altra Europa. Europost-it. Tirocini presso il Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa. Il centro nord-sud del Consiglio d'Europa, che promuove il dialogo e la cooperazione tra Europa, Mediterraneo del Sud e Africa, cerca tirocinanti per periodi di 3 o 5 mesi. Tra i compiti assegnati vi sono la ricerca, la preparazione di attività, la redazione di rapporti e minute e l'assistenza nel lavoro quotidiano. Possono candidarsi tutti coloro che hanno completato un corso di studi superiore o hanno portato a termine almeno 3 anni di studi universitari. Le domande per i periodi di tirocinio tra gennaio e giugno 2015 dovranno essere inviate entro il 31 ottobre 2014. Il sito è quello del Consiglio d'Europa, hub.coe.it, sul quale sarà necessario selezionare il centro nord-sud dal menu Democrazia per poi recarsi nella sezione Tirocini. L'altra Europa. Che viene a limpiar. Y toda esa gente debe saber que tiene el respaldo, el apoyo, el cariño y el afecto de una inmensa mayoría de los españoles. Como todos ustedes saben, lo ha anunciado hace escasos momentos la vicepresidenta. Quello che state ascoltando è il primo ministro Rajoy, fuori, primo ministro spagnolo, fuori dall'ospedale Carlos III di Madrid, dove è ricoverata l'infermiera colpita, contagiata dal virus Ebola. Torniamo sull'argomento, ovviamente, perché c'è timore, c'è paura, c'è bisogno di informazioni senza creare assolutamente allarmismo, e per approfondire, per capire, per fare una fotografia della situazione, diamo nuovamente il benvenuto qui all'Altra Europa a Sergio Brusin, capo della sezione di intelligence epidemica del Centro Europeo di Prevenzione e Controllo delle Malattie. E buongiorno Sergio, ben ritrovato. Buongiorno. Ci siamo sentiti qualche settimana fa, che ci stavi un po' raccontando come l'Europa, come vi stavate preparando ad affrontare un possibile contagio anche in Europa del virus Ebola. Non dico ci siamo, ma forse sì, perché comunque c'è stato il primo caso in Europa e la situazione è assolutamente in divenire. Qual è dal vostro osservatorio, qual è lo stato attuale della situazione? Certo, questo è uno scenario che noi avevamo previsto. Il mese scorso avevamo preparato un documento sulla valutazione dei rischi per l'Europa per quel che riguarda l'Ebola, e l'introduzione di casi in questo modo attraverso persone che sono state evacuate dai paesi colpiti era una cosa che avevamo messo tra le possibilità. Chiaramente la preoccupazione qui è di capire perché poi la persona ammalata e evacuata dai paesi africani sia stata in grado di infettare un'infermiera, come è successo in Spagna. Sì. Per noi è estremamente importante capire come è successo, per capire poi come prevedere e come prevenire casi analoghi, perché purtroppo queste cose, finché in Africa ci sarà un'epidemia fuori controllo, possono capitare. È il modo migliore per proteggere l'Europa e capire che cosa è successo ed essere preparati perché si possa evitare che succeda di nuovo. Per quel che noi sappiamo, i paesi europei sono decisamente ben preparati a queste evenienze. Non possiamo naturalmente abbassare la guardia, perché è chiaro che se è successo una volta può succedere di nuovo, o può succedere qualche cosa come quello che è capitato negli Stati Uniti le settimane precedenti, dove una persona che veniva dalla Liberia assolutamente senza nessun sintomo poi ha sviluppato la malattia all'interno degli Stati Uniti, con la possibilità eventuale di contagio di altre persone lì. Ed è lì la nostra linea difensiva: essere capaci di trovare le persone infettate, di identificarle, di identificare la malattia e di seguire tutti i possibili contatti, perché questa è una malattia che si trasmette solo da persona a persona e si trasmette solamente attraverso contatti piuttosto stretti. No, non è una malattia che si trasmette attraverso l'aria come l'influenza. Certo. Quindi bisogna che ci siano contatti con i fluidi, con la persona, con vestiti che sono stati impregnati di sangue e così via. E voi adesso avete anche emanato un documento in cui appunto raccontate, spiegate in maniera molto semplice questa cosa, che cos'è la malattia causata dal virus Ebola, come evitare il rischio di infezione, dando proprio consigli pratici. Ci sono due membri esperti della vostra agenzia ora in Spagna che stanno collaborando con le autorità. Sergio, ma sono gli aeroporti e i luoghi a rischio, è quella la porta d'ingresso del probabile del virus? E a questo punto sì, certamente i viaggiatori sono quelli che dobbiamo tenere in qualche modo sotto controllo, ma teniamo presente che i controlli agli aeroporti non è che in passato abbiano funzionato particolarmente bene. La nostra vera prima linea di difesa è nei paesi africani, dove i controlli devono essere fatti all'uscita, come l'OMS sta suggerendo. E poi la seconda linea di difesa è all'interno dei nostri paesi, dove dobbiamo essere in grado di identificare i pazienti malati. Questa è l'assoluta priorità. Fermarli all'aeroporto in qualche caso è possibile, ma non è un sistema che in passato si sia mostrato molto efficace. E voi monitorate la situazione ora per ora e cercate anche di fare un'attività condivisa e coordinata tra gli stati membri, ovviamente. C'è coordinamento tra le nazioni in questo momento? Sì, c'è un coordinamento molto stretto. E c'è un comitato, che è il comitato Health Security Committee, il comitato di sicurezza sanitaria, dove tutti i paesi membri dell'Unione Europea sono presenti, e in questo periodo si riunisce praticamente due volte alla settimana. Noi partecipiamo a questo comitato e la Commissione Europea coordina tutte quante le attività di risposta e di prevenzione per evitare l'ingresso della malattia in Europa e contenerla qualora poi arrivi. La prossima riunione sarà, se non erro, mercoledì. Sì. E noi saremo lì presenti e avremo anche la possibilità di avere informazioni dirette, visto che abbiamo i nostri due colleghi che stanno lavorando con le autorità spagnole là. E il coordinamento sta funzionando molto bene, abbiamo prodotto tutta una serie di documenti di supporto per gli stati membri, consigli per i viaggiatori, consigli per i nostri laboratori, in modo che siano in grado di interpretare i risultati nel modo migliore possibile. E c'è tutto un lavoro di preparazione che ci permette di essere ottimisti rispetto a quello che sta succedendo. Insomma, questo ci rincuora. Grazie davvero a Sergio Brusin, capo della sezione di intelligence epidemica del Centro Europeo di Prevenzione e Controllo delle Malattie. Si trova a Stoccolma questa agenzia, e cdc.europa.eu il sito per avere tutte le informazioni. Grazie Sergio, buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Buongiorno, grazie. Buon sabato. Europost-it. Ricordare per vivere, un concorso fotografico sui luoghi della Grande Guerra. In occasione del centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, l'Institut Français Italia e il Goethe Institut Italien invitano il pubblico italiano a ripercorrere i luoghi del conflitto in Italia o in Europa. Sono previste due categorie. Per concorrere nella sezione reportage occorre presentare 8 foto di livello avanzato. Per quella social, invece, si possono inviare uno o più scatti amatoriali. L'obiettivo è quello di mostrare come quelli che un tempo erano teatri di guerra siano diventati oggi luoghi di vita. Per partecipare occorre affrettarsi. Il termine ultimo per la consegna è il 15 ottobre. Per saperne di più, collegatevi al sito institutofrancais-italia.com nella sezione Cultura, Arte, Design, Fotografia. I am a cinematographer. cinematographer, and I walked away from New York City. È uno ormai degli appuntamenti più importanti al mondo per quello che riguarda l'incontro tra il cinema e le giovani generazioni. Sto parlando del Gifoni Film Festival, che non è solo Gifoni, non è solo un'esperienza italiana, è un'esperienza che si sta diffondendo già nella sua anima. C'è da sempre il coinvolgimento di ragazzi di altre nazioni, ma ora si va anche oltre. Si va oltre tanto che l'8 ottobre a Skopje è stata inaugurata la seconda edizione del Gifoni Macedonia Youth Film Festival. Siamo nella Repubblica della Macedonia, dove appunto si sta replicando, si sta implementando il Gifoni Film Festival, al di là anche nell'area balcanica. Diamo il benvenuto a Elena Velice-Kotvac, direttrice del festival per la Macedonia. Ciao Elena, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno Italia, ciao. Grazie. Allora, un festival importante, un festival coprodotto con il Fondo Cinematografico della Macedonia, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del Governo Italiano, finanziato anche con il Fondo PAC Campania, che è il piano di azione per la coesione dell'Unione Europea. Elena, che significato ha per la Macedonia ospitare il Gifoni Film Festival? Allora, stiamo parlando di un progetto veramente pensato e voluto da anni, quindi la Macedonia sta partecipando al Gifoni Film Festival in Italia da più di 10 anni. Sì. I ragazzi macedoni hanno portato questa esperienza per tanto tempo, e l'hanno desiderata, e quindi sono loro che alla fine ci sono riusciti a portarla anche qui a Skopje. E quindi stiamo parlando veramente di un progetto di enorme importanza sia per i giovani ma anche per tutta la Macedonia, e veramente sono molto molto contenta di avere la possibilità di arrivare anche alla seconda edizione. E come lei ha già detto, stiamo sperimentando anche nei paesi balcani, ma io direi che già il periodo di esperimenti è passato. Con la prima edizione ormai siamo arrivati a una seconda edizione che veramente sta andando alla grande. Elena, direi, ti chiedo pazienza, sì. Ci fermiamo 2 minuti, abbiamo obblighi pubblicitari, poi torniamo immediatamente da te così ci racconti cosa sta accadendo proprio in queste ore lì a Skopje. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Federico Taddia, il mio account personale su Twitter e su Facebook, per seguirci anche sulle nostre piazze virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Siamo in Macedonia, stiamo parlando del Gifoni Macedonia Youth Film Festival, finanziato anche grazie ai fondi europei. Con noi Elena Velice-Kotvac, direttrice del festival, un festival che coinvolge 600 ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18 anni provenienti da 9 paesi: Italia, Romania, Georgia, Serbia, Croazia, Moldavia, Russia, Bulgaria e appunto Macedonia. Il tema scelto per il 2014 è il Crossroads, le crocevie, che è stato scelto dai giurati stessi sui social ufficiali dell'organizzazione. Elena, che Europa esce da una manifestazione di questo genere, che è una manifestazione di incontro, di confronto, di condivisione, di vita insieme soprattutto? E qual è secondo te l'immagine più bella di una manifestazione di questo genere? Direi che l'esperienza più bella, cioè Europa che esce da esperienze del genere, è un'Europa veramente vivace, pimpante, piena di energia, piena di gioventù, che ha tantissime idee da condividere con il mondo degli adulti. E io direi che sono proprio i giovani a cui dobbiamo dare la forza e la parola per poter cambiare questo mondo, oppure almeno iniziare a cambiarlo. E quindi direi che si tratta veramente di un'esperienza unica in cui siamo veramente ad un crossroad di idee, di esperienze, di tante energie che alla fine danno risultati veramente spettacolari. Mm-hmm. Tanti film, tante visioni, tante pellicole a disposizione. Il cinema oggi rappresenta ancora il mondo dei ragazzi, secondo te? Direi che sì, il cinema di oggi è un mondo che dovrebbe essere un mondo anche dei ragazzi, ma purtroppo siamo tutti molto consapevoli della realtà che i ragazzi è difficile farli andare al cinema, visto che hanno già a disposizione tutto quello che serve sull'internet, cioè da casa, per cui veramente è un progetto importante anche per far i ragazzi rientrare nelle sale cinematografiche. Gifonifilmfestival.it, il sito italiano del Gifoni, oppure quello macedone che si sta svolgendo in questi giorni, www.gifoni.mk. Grazie davvero Elena, complimenti a te e a tutto il tuo staff e in bocca al lupo per questi giorni di festival. Grazie a voi. Buon cinema, grazie, ciao. Grazie a voi, grazie. Ciao. Europostit. Europa Nostra Awards, ultima chiamata. Il 15 ottobre scade il bando per partecipare allo European Prize for Cultural Heritage, il premio europeo più prestigioso nel campo della conservazione dei beni culturali. Avete progetti di conservazione, digitalizzazione o di formazione riguardanti il patrimonio europeo? È giunto il momento di partecipare al bando che premia le eccellenze tra architetti, artigiani, esperti di beni culturali, volontari, scuole, comunità locali, proprietari del patrimonio e dei media. La premiazione, che si terrà in primavera, selezionerà 7 vincitori che riceveranno un premio di 10.000 euro. Per inviare la vostra candidatura, visitate il sito europanostra.org. Abbiamo aperto la puntata parlando con Riccardo Luna, si parlava di innovazione digitale, adesso passiamo a una innovazione altrettanto importante, che è quella tecnologica. Ci piace l'Europa quando guarda avanti, ci piace l'Europa quando è lungimirante, ci piace l'Europa quando investe sul nostro futuro, che vuol dire anche migliorare la qualità delle nostre vite. Horizon 2020, l'importante progetto di finanziamento, di rivoluzione tecnologica e scientifica, spinge tantissimo su quella nuova tecnologia che si chiama motore a idrogeno, un progetto importante. C'è già un'autostrada verde in Europa che sta nascendo, un'autostrada verde che in Italia è un'importante tappa a Bolzano, dove la tecnologia idrogeno applicata ai motori già esiste. Diamo il benvenuto a Walter Huber, presidente dell'Istituto per le Innovazioni Tecnologiche di Bolzano. Buongiorno Huber. Buongiorno. Allora, ma non lo sappiamo, ma già esiste in mezzo a noi il motore a idrogeno? Beh, esiste già, siamo in una fase di test dietro un progetto europeo dove sono coinvolte le città più grandi, per esempio Londra, Oslo, Stoccarda, Hamburgo, cioè città di grande rinnovazione, e anche noi come Bolzano siamo come ponte fra la Germania o l'Europa centrale con l'Italia settentrionale soprattutto. Il problema dell'idrogeno è un problema che dobbiamo vedere nella sua globalità, non soltanto di utilizzare una macchina ad idrogeno, dobbiamo pensare chiaramente da dove deriva o da dove arriva l'idrogeno, possiamo farcelo noi stessi. Quale influsso sarà sulle energie fossili, tutta quella cosa dobbiamo discutere su questo. Certo, c'è l'idea di un corridoio verde che appunto dovrebbe attraversare l'Europa, di cosa si tratta? si tratta di un corridoio che concretamente da Monaco andrà fino a Modena. E l'idea è di fare lungo l'autostrada almeno ogni 100 km, massima distanza, una stazione di rifornimento di idrogeno. Lungo l'autostrada, non proprio sull'autostrada, questo è il punto, affinché possa essere utilizzato l'idrogeno sia per le macchine sull'autostrada, ma anche per le macchine fuori autostrada, cioè le città che sono vicino alle uscite autostradali. Certo, a Bolzano stanno già circolando i primi 5 autobus pubblici ad idrogeno, vero? Sì, 5 autobus ad idrogeno stanno circolando nel traffico pubblico della città, nel servizio pubblico, ma anche 10 macchine private che abbiamo messo in un sistema di noleggio mensile, che sono tutti già prenotati fino a fine marzo, aprile dell'anno prossimo. Ci sono le ditte che lo noleggiano e fanno anche pubblicità sia per la macchina anche per loro stessi, che sono in avanti, pensano al futuro, alla economia, ma infatti anche ecologia. Questo è importante. Qual è la reazione delle persone? C'è curiosità, c'è paura, c'è spavento, c'è voglia di cambiare le nostre abitudini? No, non c'è problema su questo tipo. Cioè, la gente apprezza moltissimo, per gli autobus, per dirlo così, apprezza moltissimo che sono silenziosi, che non fanno puzza quando si avvicinano alle fermate, un andare molto molto più, diciamo, tranquillo, viene molto apprezzato, ma anche dagli autisti stessi viene apprezzato, perché sono diciamo silenziosi, ma anche sono senza vibrazioni, e questo gli permette che di sera sono meno stanchi quando escono che su un autobus a diesel, per esempio, che ha sempre a metano, che hanno sempre un po' di vibrazioni dai motori. Certo. Hubers, al di là del lato ecologico fondamentale, della sostenibilità fondamentale, c'è anche quella dell'opportunità di tanti nuovi posti di lavoro legati all'idrogeno, vero? Infatti, cioè l'idrogeno con le celle a combustibile è uno dei 5, diciamo, settori che l'Unione Europea ha evidenziato nel nuovo sistema Horizon 2020 che lei ha già accennato, perché è uno dei settori che può creare più posti di lavoro di ogni altro settore, e questo è importante perché sono anche posti di lavoro qualificati, posti di lavoro per i giovani che devono apprezzare poi o imparare di trattare quella nuova tecnologia. Noi abbiamo bisogno di tanta gente, di tanti diciamo giovanotti che si impegnano su questo settore. Uber, faccio la domanda all'imprenditore: è stato facile chiedere, trovare l'aiuto dell'Europa nel suo progetto? L'aiuto di Europa non è stato molto difficile, perché anche in Europa c'è nell'Assemblea delle Regioni, c'è un gruppo di all'incirca 45 regioni europee che trattano o che si occupano di questa tecnologia, per cui abbiamo una certa piattaforma dove possiamo colloquiare. Mm-hmm. E l'Unione Europea era sempre favorevole, però anche a livello locale devo dire che nella nostra provincia la politica era sempre anche favorevole. Comunque bisognava sempre convincerli che è una tecnologia che va anche a favore della provincia stessa. Certo. www.iit.bz.it è il sito dell'ufficiale dell'Istituto per le Innovazioni Tecnologiche di Bolzano. Ringraziamo il presidente Walter Huber. Buon lavoro. Grazie. Un Europostit, le informazioni per chi sta viaggiando. Poi ancora qua con l'altra Europa. Arriva Caparezza. Europostit. Uno scambio in Turchia. Let's Make a Circle è uno scambio per ragazzi che si terrà in Turchia a Bursa, dove si parlerà di cultura, inclusione, giovani e società. Dura 8 giorni e raccoglie partecipanti da Turchia, Egitto, Bosnia, Macedonia e Slovacchia. Si discuterà di come comunicare valori, di come far incontrare culture diverse e farle interagire tra di loro. Ci sono 4 posti per i partecipanti e uno per chi vuole essere il group leader. La partenza è fissata per il 24 ottobre. Per saperne di più, andate sul sito scambieuropei.info. L'altra Europa. Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché? Perché non me lo posso permettere. come donno peli sulle gambe e le braccia e non me li posso permettere. Quando supero gli anta metto su panza, lascio i capelli sul pettine, vorrei provarci con te ma ho la faccia da rettile, non me lo posso permettere. Pensioni come i senatori, non me le posso permettere. Stasera niente cena fuori, non me la posso permettere. E tra l'altro qui passano i mesi ma non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere. Quindi ti dico di no, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere. E non ci devo riflettere, te lo dico a chiare lettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no. Il 7 ottobre era a Barcellona, giovedì invece ha suonato e cantato a Parigi, ieri sera a Bruxelles, domani Londra e lunedì là dove tutto è iniziato, Amsterdam. Questo è il tour europeo di Caparezza, con il quale ci colleghiamo in diretta, credo proprio durante un trasferimento da un palco all'altro. Ciao Michele, benvenuto all'Altra Europa. Ciao. Esattamente, sono dentro un pullman e stiamo andando verso la Manica. Sono adesso immerso nella campagna francese di non so quale parte, però somiglia molto all'Italia, ti dico la verità, come scenario. Sembra di stare un po' in Toscana, in Umbria Toscana. Cioè, adesso mi fai l'italiano che quando è all'estero cerca pezzi d'Italia e assonanze con l'Italia, non credo. Non sono assolutamente quel tipo di italiano, sono uno che si lamenta del cibo, del caffè o della cosa. Mi piace molto quando vado nei posti diventare uno del posto, ecco, diciamo così. È proprio la curiosità che ho nei confronti delle culture, che sono un patrimonio alla fine, non sono un patrimonio artistico ma sono un grande patrimonio, quindi mi piace molto calarmi dentro queste culture. La bellezza è un po' al centro del tuo ultimo lavoro e tutto è nato ad Amsterdam, vero? Davanti a un quadro, quindi ha proprio una genesi europea e artistica questo disco. Tra l'altro ti rivelo che non è un segreto, però il fatto che io finisca il tour europeo, termini il tour europeo ad Amsterdam è una pura casualità, e che vuol dire che ci sia, sicuramente c'è un disegno, un destino in tutto questo, nel senso che insomma è pazzesco che io vada a concludere là dove tutto è iniziato, davanti ad un quadro di Van Gogh, precisamente il quadro della natura morta con Bibbia, che poi ha sviluppato, è stato il Big Bang di Museica, il mio ultimo album. Mm-hmm. Michele, come è andato l'incontro con questi pezzi d'Europa, questi primi palchi, e anche la tua prima esperienza di fatto? Hai partecipato a qualche festival fuori dall'Italia, però è il primo abbraccio strutturato, diciamo, con le capitali europee. Sì, quello che io sto facendo è innanzitutto incontrare tanti italiani che lavorano all'estero, sono veramente tanti, abbiamo un patrimonio lavorativo pazzesco dissipato in giro per l'Europa. Ci sono posti dove, ieri mi dicevano che addirittura a Bruxelles la seconda comunità è quella italiana dopo quella araba, e che addirittura dovrebbe essere la prima di tutto il Belgio. A Barcellona, che te lo dico a fare, certo, pieno di italiani che lavorano, Parigi anche, e ovunque ci sono un sacco di italiani che vengono comunque ad ascoltare il mio concerto, per sentirsi un attimo a casa. A Barcellona addirittura mi ringraziavano, non capivo questa cosa. Loro dicono, sono pochi gli artisti che vengono a trovarci, hanno usato esattamente questo termine, hanno detto esattamente questa frase, che vengono a trovarci, no? Come se si sentissero un attimino abbandonati. Ovviamente non è che tutti quanti siano andati fuori per piacere, alcuni sono stati costretti dalla mancanza di prospettive italiane, sono andati all'estero. La cosa però interessante è che unitamente a questi italiani migranti ci sono anche persone del posto. Mm-hmm. Un po' perché amiche degli italiani, quindi trascinate dai loro, poi ci sono anche dei curiosi, e io ho fatto il mio concependo uno spettacolo che di volta in volta viene spiegato nelle gag teatrali e nei vari momenti di parlato della lingua del posto. Quindi ho parlato in spagnolo, ho parlato in francese questi due giorni, mi accingo a tornare all'inglese domani e dopodomani, e quindi non mi fiammingo perché sarebbe troppo per me, per Google Translator, e quindi no, sto cercando insomma di fare quello che ho fatto in Italia, cioè di creare un rapporto con le persone che mi stanno ascoltando, anche se non parlano la mia lingua, cerco di andare io incontro a questa esigenza che ho di creare un legame con le persone che vengono ad ascoltarmi. Certo, la musica, linguaggio universale, lo è l'arte, sono i quadri che hai scelto, che non hanno per fortuna bisogno di lingue, bisogno di confini. Che rapporto hai con l'Europa? È una cosa che senti tu o è una cosa che senti lontana, inutile? No. Allora, se parliamo di patrimoni artistici e di culture, la sento molto mia, perché considero l'Europa una sorta di culla da cui è nata anche la cultura italiana, no? La storia europea è una storia veramente ricca e quindi affascinante. Quando posso io vado via, vado a vedere città europee, mi piace molto fare questo e quindi non mi sento fuori luogo, mi sento a casa praticamente, quasi in tutti i posti in cui sono stato, ecco. Sono stato in vacanza in posti dove non ho suonato e comunque sono rimasto colpito. Da città come Berlino, per esempio, da posti, l'italiano viene colpito essenzialmente dai posti dove funziona tutto. Sì. Non so per quale motivo. Chissà, cioè, l'italiano si stupisce se ne vedi un altro che sta stupendo, è italiano come te. Per gli altri non rappresenta forma di stupore il fatto che funzioni, no? Le cose. Però insomma, no, è una considero questa esperienza qui che stiamo facendo anche un po' non facilissima, perché si tratta di 5 stati in 7 giorni. Sì, infatti è una maratona. Spostamenti notturni, eccetera, però la stiamo facendo con grande cuore, grande voglia e volontà di farla. Mi era stato proposto anche nel passato, però questa volta non lo so, sento che sono più consapevole di quello che sto facendo. Una settimana, un Erasmus in una settimana, hai concentrato. Esattamente. Grazie davvero Michele, grazie a te e a tutto il tuo gruppo, in bocca al lupo per le ultime 2 date, e continua a divertirti e a divertire, che lo sai fare molto bene. Tra l'altro ci sarà un'appendice anche americana. Ah sì? Sì, a novembre andiamo a fare 2 date in America, una a Miami e una a Los Angeles, quindi vado a trovare anche gli italiani oltreoceano. Perfetto, allora noi ti salutiamo con Chinatown, così mettiamo dentro tutti, ok? Va bene, ciao. Non è la fede che ha cambiato la mia vita, ma l'inchiostro che guida le mie dita, la mia mano, il polso. Ancora mi scrivo addosso, amore corrisposto, scoppiato di colpo come quando corri Boston. Non è la droga a darmi la pelle d'oca, ma pensare a Mozart in mano, la penna d'oca là, sullo scrittoio a disegnare quella nota. Fa la storia, senza disco, né video, né social. Valium e Prozac non mi calmano, datemi un calamo o qualche penna su cui stampano il nome di un farmaco. Solo l'inchiostro cavalca il mio stato d'animo, chiamalo ipotalamo, lo immagino magico tipo Dynamo. Altro che Freud, un foglio bianco per volare alto, lo macchio come l'ala di un albatro. Per la città della china mi metto in viaggio, bravo, pellegrinaggio, ma non a Santiago, vado a Chinatown. Vago dagli Appennini alle Ande, nello zaino i miei pennini e le carte. Dormo nella tenda come uno scout, scrivo appunti in un diario senza web layout. Chinatown, il luogo non è molto distante, l'inchiostro scorre al posto del sangue. Come fa un clown, a volte la felicità costa meno di un pound. Chinatown, il mio Gange, la mia terra santa. Grazie a voi come sempre per essere stati in nostra compagnia. Un grazie a tutta la squadra dell'altra Europa. Alessandro Marco Tullio oggi in assistenza, Peter Bescapè alla parte tecnica, Miriam Lucchetti e Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata. L'appuntamento come sempre a sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.